Amici, il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana, siamo arrivati al capitolo settimo. Dunque abbiamo terminato il capitolo sesto, dove abbiamo parlato del potere del maligno, premendo in esame alcune affermazioni di Cristo che non sottovalutano affatto il potere del maligno. Cristo infatti dimostra di non sottovalutarlo chiamandolo il principe di questo mondo. E San Giovanni, come sapete, nella sua lettera dice che tutto il mondo è posto sotto il potere del maligno. Quindi grande è il potere del maligno, ma noi abbiamo designato i limiti di questo potere dicendo che comunque Satana è soggetto a Dio nella sua azione e in particolare nella tentazione. Satana non può tentare in un modo superiore alle nostre forze. Anche il tempo della tentazione, la durata della tentazione, l'intensità della tentazione è stabilita da Dio, è permessa da Dio la tentazione e evidentemente Dio governa anche la tentazione in modo tale che sia sempre proporzionata alle nostre forze. D'altra parte noi durante la tentazione abbiamo l'arma della preghiera per sconfiggere il maligno. Poi abbiamo evidenziato l'altro aspetto, l'altro limite al potere del maligno dicendo che l'uomo comunque rimane libero. L'uomo rimane libero perché Satana può, certamente, Satana come d'altra parte gli angeli buoni, possono influire sulla nostra mente, sulla nostra immaginazione, sulla nostra fantasia, sui nostri sensi esterni, ma non possono piegare la nostra volontà. Solo Dio può piegare la nostra volontà e la può piegare pur conservandone la libertà. In che modo? Dio trova nella struttura stessa della volontà umana il suo più grande alleato, in quanto la volontà umana è tendenza al bene, quindi Dio può attirare a sé le anime mostrando con intensità, con forza il bene, e quindi ottiene il loro consenso, la loro adesione. E in questo modo si spiegano quelle conversioni straordinarie avvenute in un, diciamo così, in pochi istanti, in pochi momenti, come quella di San Paolo, per esempio, o quella di Alfonso Ratisbon, che abbiamo anche illustrato qui a Radio Maria. Sono conversioni dove la potenza della grazia agisce sulla volontà umana, ma la quale rimane libera, perché in quei momenti Dio manifesta la sua grande luce, dalla quale la volontà è affascinata e attratta, pur naturalmente autodeterminandosi liberamente. Per cui, cari amici, non dimentichiamo mai questa affermazione di grandissimo valore teologico, e cioè che mentre Dio può piegare la volontà umana pur conservandola libera, Satana non può mai piegare la volontà umana e quindi se noi non gli diamo il nostro consenso non potremo mai essere suoi. Certamente Satana per ottenere il nostro consenso ci inganna, cioè presenta la mente, e qui sta la sua grande astuzia, presenta la mente, alla nostra mente, il male sotto forma di bene, perché lui sa che la nostra volontà è appetitus boni, è tendenza al bene, che noi siamo spontaneamente orientati al bene, allora cerca di ingannarci presentando il male sotto forma di bene, quindi presenta ai nostri giovani per così dire, un progetto di vita in cui loro siano i padroni, in cui la vita è loro, in cui loro decidono di essere liberi, in cui non sono più soggetti a Dio, eccetera. E sono affascinati da questa visione della vita, che in realtà poi è una visione della vita in cui l'uomo nega se stesso come creatura e quindi imposta la vita sulla menzogna con gravi conseguenze per se stesso. Adesso, cari amici, dopo aver evidenziato, messo in luce la potenza di Satana e aver messo in guardia dai pericoli di una sua sopravvalutazione come di una sua sottovalutazione, affrontiamo i due capitoli chiave dal punto di vista teologico del nostro libro, sono il capitolo settimo e il capitolo ottavo. E il capitolo settimo, appunto, è intitolato La vittoria di Cristo. Il capitolo ottavo è intitolato La Vergine potente contro il male. Cioè, noi dobbiamo vedere la vittoria di Cristo contro Satana sempre associata alla madre, perché così fa il Vangelo, il protovangelo, quando dice porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la sua stirpe e la tua stirpe, essa ti schiaccerà la testa, ma anche il libro dell'Apocalisse, quando mette in evidenza la lotta contro il drago di Maria Chiesa, Maria e la Chiesa da una parte, Maria che genera il figlio e Satana dall'altra. Quindi in questa lotta contro il male la Bibbia vede sempre Cristo e sua madre da una parte e il dragone dall'altra. Vi dicevo che questi due capitoli sono fondamentali perché appunto ciò che annuncia la fede, la Bibbia, è la vittoria di Dio su Satana. Questa vittoria di Dio su Satana sarà poi celebrata in termini definitivi nell'Apocalisse, mentre i Vangeli ne celebrano la vittoria, diciamo, la vittoria che però non mette ancora fine al male. E i Vangeli celebrano la vittoria di Cristo su Satana e quindi l'inizio della redenzione e quindi anche le armi che tutti i credenti hanno nella lotta contro il maligno, però, attenzione, nonostante la vittoria di Cristo e di Maria su Satana, esso ha ancora il potere di insidiare gli uomini, fino alla fine del mondo. Quindi i Vangeli celebrano questa vittoria di Cristo su Satana, che è il cuore stesso del Vangelo, ma questa vittoria poi deve essere condivisa dagli uomini lungo il corso dei secoli. Soltanto alla fine, e qui subentra l'Apocalisse, Satana sarà per sempre rinchiuso nello stagno di fuoco e di zolfo, come si esprime l'Apocalisse, cioè non potrà più nuocere al piano di Dio. Quindi il capitolo settimo e il capitolo ottavo sono fondamentali dal punto di vista teologico. Invece poi, col capitolo nono, in pratica comincia la seconda parte del libro, che è la più interessante. Cioè, mentre la prima parte è la più importante dal punto di vista teologico, perché mette in luce tutti i fondamenti della fede, dal capitolo 9 incomincia la parte più interessante del libro e più affascinante in un certo senso, perché parlerà poi della tentazione e quindi della nostra lotta quotidiana, e quindi lì evidentemente potremo toccare con mano e scoprire tante insidie che il tentatore arreca alla nostra vita. Ma per il momento siamo ancora nella parte teologica e in modo particolare siamo adesso concentrati su questa che è una buona novella, cioè che è arrivato il forte, è arrivato il vero principe di questo mondo che è il Verbo incarnato, il forte che è appunto Cristo, come lui chiama se stesso, che dice che entra nella casa dell'altro forte che è il maligno e lo caccia. E difatti Cristo, commentando la sua venuta nel mondo, dice ecco il principe di questo mondo, cioè il maligno sta per essere gettato fuori. Questa vittoria di Cristo su Satana era stata già preannunciata subito dopo il peccato di Adamo ed Eva, cari amici. Il famoso protovangelo, no? Dove dice io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Quindi potremmo dire in concomitanza con la vittoria del maligno sui nostri progenitori, è stata annunciata la sua sconfitta, la sua sconfitta da parte di un'altra donna e dal seme di questa donna che è Cristo stesso. Allora noi, nel capitolo settimo del nostro libro Il Falsario, vogliamo comprendere la portata, la vastità di questa vittoria di Cristo, perché poi è a questa vittoria che noi dovremo attingere, che noi attingiamo per la nostra battaglia quotidiana contro le potenze del male. Vediamo dunque per oggi il primo paragrafo di questo capitolo settimo dedicato alla vittoria di Cristo, che è dedicato appunto alla profezia dell'Eden. Perché, come sapete, subito dopo la catastrofe originaria in cui Satana riuscì a sottomettere l'umanità per consenso dell'umanità, abbiamo ieri illustrato come Satana sia diventato il principe di questo mondo in un modo democratico, cioè avendo avuto il consenso da parte degli uomini, ma Dio fin dall'inizio ha già preannunciato la sua sconfitta e naturalmente questo avviene anche col consenso di Cristo, che aveva una volontà umana, non dimentichiamolo, di Maria e di tutti noi. Allora, come al solito siamo a pagina 46, come al solito leggiamo e commentiamo il testo che abbiamo preparato. Qualsiasi discorso, scrivo, sul demonio rischierebbe di essere fuorviante se non si mettesse in risalto la vittoria di Cristo. E quindi abbiamo più volte messo in luce come sia pericoloso dare al demonio più forza di quello che ha, sia pericoloso soprattutto per lo scoraggiamento, perché molte persone poi dicono ma chi ce la fa a combattere contro il male? Cioè, una delle grandi suggestioni diaboliche, una delle grandi tentazioni diaboliche consiste proprio in questo, nel far sì che il demonio ti scoraggi mostrandoti il bene impossibile. Cioè lui ti presenta il male così forte che da spingerti alla resa, allo scoraggiamento. E questa è certamente una tattica pericolosissima, no? Allora, bisogna mettere in evidenza la vittoria di Cristo, in tutta la sua portata. Cioè, Cristo ha veramente vinto il demonio. E invece un modo molto pericoloso, anzi fuorviante, di impostare il problema laddove si dice, cioè, ci sono delle persone che cercano di rendere il demonio inoffensivo, prima ne negano o negandone la pericolosità, ritenendolo un povero diavolo, alcune addirittura ne negano l'esistenza, no? Come fanno certe persone, no? Come fanno a cacciare la paura che hanno dentro di sé del demonio? O ne negano l'esistenza, o ne negano la pericolosità, oppure addirittura ipotizzano una sua conversione. E questi sono tre modi sbagliati per esorcizzare la paura del demonio. Sono sbagliati perché non sono veri. Non si esorcizza la paura del demonio negandone l'esistenza o negandone la pericolosità o prefigurandone la conversione. Ma la paura psicologica che ci portiamo dentro di noi nei confronti del demonio la si caccia con una verità di fede molto limpida, molto grande, cioè la vittoria di Cristo. La vittoria di Cristo è la vittoria di coloro che sono di Cristo sul demonio. C'è la Catena da Siena che il demonio ha terrore di un'anima che è in grazia di Dio. Il demonio ha terrore di un'anima che è in grazia di Dio. Quindi noi dobbiamo esorcizzare la paura che la gente ha nei confronti del demonio mettendo in risalto la vittoria di Cristo e di coloro che sono di Cristo. Infatti, scrivo, se Satana ha vinto una battaglia, Cristo ha vinto la guerra. Per quanto il grande drago sia infuriato e abbia la capacità di sedurre tutta la terra, come dice Apocalisse 12,9, non bisogna dimenticare che Cristo, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1708, con la sua passione ci ha liberati da Satana e dal peccato. Questo non significa che il maligno non abbia più la possibilità di nuocere. Anzi, come una bestia ferita, è ancora più pericoloso di prima. E sapendo che il tempo concesso gli è limitato, sfrutta tutte le occasioni utili e non si concede un attimo di sosta. Non c'è dubbio, cari amici, che dopo la redenzione il demonio è stato vinto, ma è ancora più pericoloso, come è pericoloso qualsiasi bestia ferita. E in particolare sapendo che il tempo che gli rimane è limitato. Tuttavia ora, benché appunto lui sia ancora più pericoloso di prima, la situazione è radicalmente diversa, perché dopo il compimento della redenzione agli uomini è concessa la luce di Dio per scoprire le insidie dell'avversario e la forza della grazia per resistere ai suoi assalti e conseguire la vittoria. Quindi, se voi leggete l'Apocalisse, cari amici, comunque se voi prendete in mano i Vangeli, incominciando a vedere qual è l'atteggiamento del demonio nei confronti di Cristo, un atteggiamento di grande combattività, cioè mai nel Vecchio Testamento il demonio era emerso, forse soltanto nel libro del Genesi, ma poi mai nel Vecchio Testamento il demonio era emerso in tutta la sua pericolosità, in tutta la sua ferocia, come quando è emerso, come nel Nuovo Testamento. E questo anche dopo la redenzione, anche dopo la resurrezione di Cristo. Infatti, se voi leggete gli Atti degli Apostoli, vedrete come Satana è furiosamente impegnato nella lotta contro la Chiesa. Se poi voi leggete l'Apocalisse, vi rendete conto che la sua forza rimane immane, tremenda, furiosa, il drago infuriato proprio. No, l'immagine del drago infuriato e del leone ruggente sono proprio degli apostoli che parlano del demonio dopo la redenzione. Quindi possiamo ben dire, cari amici, che con la venuta di Cristo la belva si scatena e anche se colpita a morte conserva una pericolosità straordinaria. Qual è allora la differenza di situazione rispetto a prima di Cristo? La differenza è dovuta al fatto che ora noi abbiamo la luce del discernimento per scoprire le sue insidie e la forza della grazia per respingere i suoi assalti e conseguire la vittoria. Cioè la grande differenza è che ora abbiamo le armi per scoprirlo e per vincerlo. Qualsiasi tentativo di minimizzare la vittoria di Cristo su Satana va considerato come una sottilissima insidia diabolica. È l'insidia in cui è caduto uno dei protagonisti, adesso non mi ricordo esattamente quale romanzo di Bernanos, vi ho già detto, è stato tradotto poi in un film famoso intitolato Sotto il sole di Satana. Questo personaggio, questo prete, l'abbé Donissan, no? Il quale appunto riteneva che anche dopo la redenzione Satana potesse competere col potere di Cristo. Questa è una sottilissima insidia diabolica, state attenti, Cioè non si può assolutamente, cioè qualsiasi tentativo di minimizzare la vittoria di Cristo su Satana va considerata una sottilissima insidia diabolica. Non manca chi giustifica il peccato dicendo che l'inclinazione al male dell'uomo è invincibile. Questo è un inganno satanico. Oggi si scusano molti peccati, se non teoricamente, almeno di fatto, rinunciando a metterli in luce e stendendo su di essi la coltre dell'oblio. Questo è veramente uno degli atteggiamenti su cui noi sacerdoti, noi catechisti, dobbiamo fare un esame di coscienza. Cioè noi non parliamo più di certi peccati, specialmente del sesto comandamento, per dirla chiara, non parliamo più di certi peccati perché pensiamo che ormai la gente non ci ascolta più, pensando che ormai è tempo perso andar controcorrente. Cari amici, ma allora scusate, allora la menzogna ha la vittoria sulla verità? Allora il male ha la vittoria sul bene? Ma questa resa di fronte alla menzogna è qualcosa di veramente di satanico. Oggi si scusano molti peccati, se non teoricamente, almeno di fatto, scrivo, rinunciando a metterli in luce e stendendo su di essi la coltre dell'oblio. Pensiamo ad esempio all'oscuramento, ecco l'ho scritto qua, pensiamo ad esempio all'oscuramento della predicazione quotidiana rispetto a molti peccati sessuali. San Giovanni Battista ci rimise la testa per aver denunciato il peccato di adulterio. La prima comunità cristiana lo considerava l'adulterio il peccato più grave dopo l'apostasia e l'omicidio. Oggi semplicemente non se ne parla. Perché? Perché di fronte alla marea del male noi crediamo che ci sia niente da fare. Ma allora noi non crediamo alla vittoria della verità sull'errore, del bene sul male, della grazia sul peccato. Allora noi siamo stati ingannati dal maligno. Se tacciamo, perché diciamo che tanto serve a niente? Ci chiediamo quale sia la radice profonda di una certa acquiescenza al male di tanti cristiani del nostro tempo. Cioè rassegnati al male. Il buonismo, no? Il perdonismo. A volte sembra un'armata allo sbando, in preda allo scoraggiamento e tacitamente rassegnata alla sconfitta. Il male sembra trionfare e cantare vittoria. La tattica di Satana è quella di spaventarci con i suoi successi per farci gettare la spugna prima ancora di combattere. Effettivamente le apparenze esteriori sembrano dargli ragione. Non è forse sotto il suo influsso gran parte della società, soprattutto nei settori più importanti? La politica, l'economia, i mass media e la cultura sono ampiamente nelle sue mani. Eppure la sua, di fronte a quella di Dio, una falsa forza. I credenti non devono mai dimenticare che è bastata la fionda del piccolo Davide per abbattere il gigante Golia. La vittoria di Cristo su Satana è il cuore stesso del Vangelo. Essa ha inaugurato il tempo nuovo della grazia e della misericordia. La barca di Pietro è inaffondabile, per quanto le porte dell'inferno cerchino di prevalere. Con la redenzione Cristo diviene il dominatore della storia. Egli è il potente, Cristo è il potente, che ha legato Belzebul per rapirgli la preda, Matteo 12,29. Per quanto l'Apocalisse descriva profeticamente l'impressionante dispiegamento della potenza del male fino alla fine del mondo, in realtà a risultare vincitore della forza e del potere della bestia è l'agnello, il re dei re, il signore dei signori, Apocalisse 17,13. È lui l'agnello, e questa è una delle tesi fondamentali dell'Apocalisse, per chi la legga con semplicemente, senza bisogno di tanti esegesi, e cioè la tesi fondamentale dell'Apocalisse, sapete qual è? Che è l'agnello e non Satana il vero padrone del mondo. Dio, fin dal momento della vittoria del serpente antico, ha messo in chiaro che si trattava ad un trionfo provvisorio, quello del serpente, era provvisorio, e che sarebbe venuto colui che l'avrebbe schiacciato la testa. Infatti Genesi 3,15 dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. La stirpe della donna è Cristo, sapete. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Tutta la storia che precede la venuta di Cristo è illuminata da questa grande profezia di liberazione e di vittoria. L'umanità, prima della redenzione, ha visto l'estendersi del potere delle tenebre, ma non è mai stata senza la speranza della liberazione. Il dominio di Satana sul mondo non è mai stato tranquillo. Fin dal principio, nonostante l'estendersi del male, Dio ha avuto i suoi amici e la luce della verità accesa nelle coscienze che non si è mai spenta, neppure nei momenti più oscuri. Questo ha permesso agli uomini di non perdere del tutto il cammino e di ricevere in ogni epoca della storia gli aiuti necessari alla salvezza. Quindi non è mai stato totale il dominio di Satana, neanche prima della venuta di Cristo. La luce della coscienza è sempre rimasta accesa, il libero arbitrio, quindi la possibilità di fare il bene, è sempre rimasto, e Dio ha avuto ovunque, in tutte le religioni, i suoi amici. E naturalmente, cari amici, la prossima catechesi che ci aspetta è la grande vittoria di Cristo sul demonio. Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso